Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. 8 febbraio 2015. L'Italia recupera sul biogas impianti a quota 2000. Anche nel bel paese cresce la produzione di biogas dopo i ritardi degli anni passati dovuti a ragioni tecniche ma anche a perplessità etiche. I nuovi incentivi hanno dato una svolta al settore e così gli impianti per produrre gas e quindi energia dagli scarti agricoli e animali hanno superato quota 2000. Un contributo importante è stato dato anche dall'avvio nel nostro paese della produzione di biometano, che nasce dalla trasformazione del biogas non impiegato nella produzione diretta di energia elettrica. Fin qui la notizia dell'8 febbraio 2015, ma come sapete il futuro ha radici nel presente, in questo 2012. E sul biogas in Italia il dibattito è aperto. Coldiretti denuncia l'utilizzo di derrate agricole per alimentare gli impianti e su questo pesano incentivi che finora hanno favorito la realizzazione di impianti di grossa taglia. Ora chi è favorevole, come Confagricoltura, sostiene che produrre biogas deve integrare l'attività agricola, senza fagocitarla. Il vicepresidente nazionale Antonio Piva. Noi abbiamo raggiunto i 700-800 impianti in Italia e siamo ancora in via di sviluppo, in quanto se ci parametriamo la Germania, che ha circa 6.000 impianti agroenergetici a biogas, l'Italia è partita decisamente in ritardo. È partita in ritardo pur avendo il sistema Italia inventato la produzione del biogas, perché negli anni 80 l'avevamo inventata noi. In Italia ci sono grosse potenzialità di sviluppo, però lo sviluppo deve essere subordinato a una serie di paletti. Il primo è che deve esserci a monte un'attività zootecnica, perché il reflo zootecnico contribuisce, quindi diciamo è un valore aggiunto che noi diamo alla produzione. L'altro aspetto è ampliare la gamma di sottoprodotti utilizzabili per poter avere sempre un prodotto con un prezzo decisamente competitivo per quanto riguarda l'alimentazione del digestore. Qualcuno dice non è eticamente corretto utilizzare una materia prima importante per l'alimentazione umana per produrre energia. Su questo aspetto io non sono completamente d'accordo, perché il mais lo utilizziamo per vari tipi di produzione, non solo per l'energia, per produrre materiale plastico ed altro. Quel che io ho sempre ribadito e vorrei ribadire è che l'attività del biogas è un'attività che l'imprenditore agricolo deve valutare come non attività primaria ma come attività per integrare il reddito. È tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Anna Rita D'Ambrosio e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci, potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.